Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Bentrovati da Enzo Argante e il traghettatore. Cominciamo subito con le notizie di questo weekend. Oggi, sabato 12 febbraio, è la giornata della raccolta del farmaco. Il vicepresidente della Fondazione Banco Farmaceutico, Marcello Perego, ci spiega di che cosa si tratta. Buongiorno Presidente. Buongiorno a voi. È un gesto semplice di carità. Siamo arrivati all'undicesima edizione. Basta andare in una delle 3200 farmacie presenti su tutto il territorio nazionale, riconoscibili dalla locandina del Banco Farmaceutico. All'interno ci sarà la possibilità di donare uno o più farmaci di automedicazione che poi il Banco Farmaceutico successivamente li darà a 1200 associazioni che danno assistenza a 400.000 persone. I numeri sono molto elevati, però devo dire che anche la generosità degli italiani finora è sempre stata molto positiva. Abbiamo come obiettivo quest'anno di superare le 350.000 confezioni raccolte in un solo giorno, che era stato il risultato dell'anno scorso. Quindi chiediamo anche quest'anno di darci una mano e di superare questo piccolo record. Ci associamo a questo invito, grazie. Oggi è anche la giornata del progetto Sicomoro. Al Cacciari di Opera, alle 10.30 di oggi, ci sarà la conferenza stampa in cui saranno presentati i risultati del progetto Sicomoro, che è un progetto di giustizia riparativa. Si tratta in realtà di un'iniziativa della Prison Fellowship Italia che ha come obiettivo quello di far incontrare e dialogare le vittime e gli autori dei reati. Abbiamo in linea con noi il nuovo presidente di Impronta Etica, Maurizio Chiarini, è amministratore delegato di ERA, la Public Utility di Bolognese, è stato nominato in questi giorni presidente di Impronta Etica. Buongiorno presidente, che cos'è Impronta Etica? Impronta Etica è un'associazione no profit che raggruppa un insieme di imprese con l'obiettivo di diffondere la cultura della responsabilità sociale all'interno delle imprese. Per fare questo ha una serie di iniziative, tra cui studi, ricerche, convegni, seminari e soprattutto assistenza alle imprese nell'attività di introduzione della responsabilità sociale. Va detto che per le imprese la responsabilità sociale non deve intendersi come una forma di beneficenza, questo sia ben chiaro, ma fa parte della strategia, della cultura delle imprese, le quali attraverso l'introduzione della responsabilità sociale cercano di avere un percorso di sviluppo che sia alla fine in realtà un elemento che porta a una maggiore competitività all'interno delle imprese. Sostanzialmente si tratta di un approccio cosiddetto multi-stakeholder, cioè le imprese, anziché pensare soltanto alla produzione di profitti nel breve termine, definiscono la propria strategia e la propria attività gestionale tenendo conto delle esigenze e delle aspettative di tutti gli interlocutori, che vuol dire non soltanto gli azionisti ma anche i lavoratori, i clienti, le comunità, l'ambiente e così via, e attuano una politica di responsabilità sociale corrispondendo alle aspettative di questi vari interlocutori. Bene, grazie Presidente. D'altronde chi segue Ferry Boat in questi anni sa che cos'è la responsabilità sociale di imprese. In questo caso sottolineiamo che si tratta anche, se non per lo più, di aziende cooperative che hanno quindi un po' nel bagaglio genetico questa tendenza. Fino a domani, vi ricordiamo, ed è l'ultima notizia di oggi, Pronto Alzheimer. Sarà possibile ancora sostenere per un giorno il primo servizio telefonico in Italia per il sostegno, l'assistenza e l'orientamento per i malati e i loro familiari. Si possono donare 2 euro inviando un SMS. Vi diamo il numero, è 45 503. Questo è possibile da tutti i cellulari. Grazie di averci seguito, vi ricordo che potete segnalare le vostre iniziative di responsabilità sociale o di no profit a ferribot@radio24.it, potete riascoltare il programma sulla radio24.it, il nostro sito. Ferribot va in onda alle 6.50 del sabato, oltre che in replica alle 13.55, nonché la domenica, la seconda edizione, quella per la settimana, alle 6.50 e alle 14. Grazie alla redazione curata da Anita Panizza e alla regia di Carmelo Lauricella. A risentirci.